Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. E questa è davvero la centesima puntata della nostra collaborazione con l'Adico, con il nuovo nome, Diritti e rovesci, allora con Carlo Garofolini, che saluto, ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti. Torniamo a parlare di soldi, di SKEI, di spese, oggi in particolare di multe, giusto? Sì, torniamo a parlare di brutte cose, in questo caso di multe, perché? Perché in Italia negli ultimi 10 anni si è registrato un aumento scandaloso delle multe del 1512%. 1512, vuol dire che sono aumentate di 16 volte le multe? Esattamente, vuol dire che in 10 anni le multe sono aumentate di quasi 16 volte. Quando abbiamo dei paesi in Europa di cui noi possiamo fare dei confronti, come solitamente fare, notiamo come in Romania sono aumentate del 341%, in Grecia del 315%, possiamo notare come in Belgio del 285%, ma anche come in Francia del 46%, Spagna 44%, Belgio 41%, Inghilterra 38%, Germania 23% e Svezia solo il 19%. Ecco, l'aumento, Carlo, riguarda, cioè, il numero delle multe o la quantità di soldi che si paga? L'aumento riguarda la quantità di soldi che si paga, quindi una multa che si pagava 100 adesso si paga 1512 euro rivalutata in 10 anni, quindi oggi più che mai abbiamo la prova come l'accanimento che soprattutto le amministrazioni perseguono nei confronti degli automobilisti è un accanimento volto solamente a far cassa in un periodo di magra delle casse degli enti locali. E quali sono le contravvenzioni più gettonate, diciamo così, passatemi il termine? Allora, è da dire che questo fenomeno di, e io lo preferisco sempre precisare, di persecuzione che le amministrazioni hanno nei confronti degli automobilisti, è un fenomeno che viene sempre più ricercato con l'utilizzo della tecnologia. Pensiamo per esempio agli autovelox, come al Velocard, come alle ZTL e come altre apparecchiature del tipo telelaser, eccetera. E bisogna dire che queste apparecchiature, che normalmente dovrebbero avere il compito di dissuadere l'automobilista a un comportamento adeguato a quelli che sono i limiti di velocità, normalmente invece scopriamo che cercano sempre di rilevarlo nelle infrazioni più incredibili. Pensiamo ai Velocard, quando ti sottrae 2 punti sulla patente, 55 euro solamente se fermandoti per caso hai superato la linea bianca di alcuni centimetri, come autovelox che per esempio rivelano la velocità 56-57 km orari quando un automobilista corre per esempio a 50-52, quando c'è il limite, scusa, di 50 km orari, e altre apparecchiature come quelle che sono dotate a certi comuni per rilevare l'invasione di carreggiata rispetto a quella che è una segnaletica di linea continua, tutti comunque espedienti che come scopo hanno, come detto, solo quello di defraudare i poveri automobilisti, che già oggi utilizzare un'auto soprattutto per andare a lavorare sta diventando un onere sempre più costoso anche in funzione di quello che sono dei tagli, dei aumenti delle tariffe dei mezzi pubblici. Ecco, una volta c'era la famosa multa per divieto di sosta, adesso sembra che, a parte che anche ormai anche i parcheggi sono controllati elettronicamente, quindi anche lì è entrata la tecnologia, ma evidentemente si punta molto sull'eccesso di velocità, che è un'infrazione che, cioè, sembra che siamo diventati tutti indisciplinati, ma in realtà è perché ne vengono rilevate di più, una volta non era così. Guarda, io ti dico, Mirko, che permettendo che sono perfettamente d'accordo con te, però è raro, e dico veramente è raro, e noi come Adico possiamo testimoniarlo per i centinaia di casi che ogni anno trattiamo, di trovare automobilisti che rispetto a quello che è un limite di 50 all'ora se non transitate 80-90 all'ora. Normalmente sono tutte persone che sono transitate 60-65 al massimo 70 e che sono transitati negli orari in cui non c'era traffico e magari stavano andando al lavoro o avevano delle necessità impellenti, come magari poteva essere andare a prendere un figlio a scuola oppure andare ad assistere magari dei nipoti se quando stavano poco bene, parliamo dei nonni. È difficile che qualcuno di fronte a un limite di 50 km orari che sia transitato a 150 decida di fare il ricorso. Non è certamente questo tipo di assistenza di persone che noi come associazione normalmente diamo, però è da dire che ormai tutto è un'occasione per far cassa, perché vediamo solamente anche i parcheggi nelle strisce blu come in questi anni da pochi centesimi sono diventati €1, €1,50 all'ora. Vediamo come per esempio certe zone di transito, le ZTL, inducano e costringono l'automobilista a farsi degli abbonamenti per poter transitare o andare a casa sua, come vediamo anche proprio delle sorte di pass che deve avere per transitare in alcuni quartieri della città. Ormai è solo un vero e proprio accanimento. E allora in tanti ovviamente cercano di fare ricorso, cercando di dimostrare che magari il limite superato è superato davvero, davvero di poco, non con velocità pericolosa, dove ovviamente bisogna intervenire, e ci sono tanti casi anche in autostrada e anche nei centri abitati, insomma quelli sì. Certo, anche 51 all'ora è oltre il limite, ma poi c'è anche il buon senso nell'applicazione della norma, no? Poche volte c'è buon senso, perché c'è una tolleranza del 5%, quindi già uno quando corre a 56 km orari viene rilevato a 53, e noi abbiamo molti casi. Però dobbiamo anche dire, amico, che purtroppo le vetture non sono quelle di una volta e certi limiti magari possono risultare inadeguati in certi tratti stradali. Però, come detto, è anche vero che normalmente l'automobilista non infrange mai i limiti in maniera esagerata, ma normalmente li supera sempre di poco e più delle volte anche giustificato. Come è anche vero che purtroppo in un'ottica di far cassa e di defraudare le tasche degli automobilisti, anche il ricorso alla giustizia è diventando sempre più oneroso e meno incentivante, perché con il nuovo codice della strada, per esempio a settembre di 2011, danno 30 giorni di tempo per poter fare ricorso al giudice di pace, quando una volta era 60, e rimane 60 per farlo il prefetto. È anche vero che noi come esperienza sconsigliamo di farlo il prefetto, perché normalmente il prefetto non le accoglie mai e così l'automobilista si trova a raddoppiare l'importo della sanzione, mentre l'automobilista deve tener conto che rivolgersi al giudice di pace ci vuole molta pazienza, tempo e soprattutto una marca da bollo da 37 euro. Tanto per cominciare, ecco, e poi c'è anche tutta una burocrazia da seguire, non è che basta un foglio scritto così a mano libera o su carta libera. C'è una burocrazia pazzesca, ci sono dei moduli da compilare e per ogni contravvenzione bisogna ricordarsi che ci sono da fare 5 copie dell'atto e della sanzione. Pensiamo a chi per esempio, come è venuto all'Adico per le vicende di transito di fronte alle telecamere, perché magari non erano stati avvertiti che gli era scaduto l'abbonamento, hanno preso 14-15 rilevazioni. Dobbiamo pensare a 14-15 rilevazioni in 5 copie ciascuna, una marca da bollo per ciascuna di queste 14-15 rilevazioni e tutto quello che poi è il materiale con cui ciascuno vuole arricchire un ricorso. Chiaramente uno va là con uno scatolone di documenti e con una valanga di marche da bollo pagate, quindi tutto viene fatto sempre in un'ottica di spremere l'automobilista e in questo caso il consumatore. Dopo l'abolizione dell'ICI c'è stato un vero e proprio accanimento nei confronti dell'automobilista e ciascuno di noi penso possa rendersi conto come ormai i comuni vengono arricchiti di telecamere di un tipo anche di un altro. Io concludo dicendo solo che un'unica apparecchiatura è risultata efficace ai semafori per non incentivare l'automobilista a passare ed è quello che fa evidenziare i secondi che mancano all'arancione in modo che uno si sa regolare. Oggi abbiamo la prova che invece le amministrazioni preferiscono mettere una telecamera che appena scatta l'arancione, se sei lesto a fermarti bene con i rischi degli incidenti, oppure dal momento che passi entro 4 secondi ti trovi 155 euro e 2 punti della patente. Quindi vediamo come la tecnologia viene malamente utilizzata. Allora, per non fare apologia di reato, o meglio di contravvenzione, diciamo che bisogna innanzitutto cercare di rispettare i limiti e così uno evita problemi. Se proprio uno ha problemi, magari può rivolgersi all'Adico per capire come fare ricorso, oppure se alla fine sia comunque economicamente conveniente, come sembra in tanti casi, sia conveniente pagare la multa piuttosto che imbarcarsi in burocrazie complicate e costose, no? Certo, noi come Adico, per esempio, l'anno scorso solamente per ZTL abbiamo fatto per esempio 193 ricorsi davanti ai giudici di pace, ne abbiamo fatti quasi 300 per gli autovelox. Come Adico diamo un'assistenza legale a tutti gli automobilisti, valutando assieme dove ci sono i margini o meno per poter fare qualcosa. Bisogna sempre ricordarsi che pagare la multa è, purtroppo è una situazione che non sempre si riesce a non poterla pagare, e che normalmente i ricorsi, quando si decidono di intraprendere, purtroppo non si ha mai la certezza della pena. Assieme siamo qua a disposizione e assieme con gli automobilisti cerchiamo di capire anche dove poter intervenire o meno a fronte di apparecchiature scandalose posizionate in zone in strade che secondo noi, a detta degli automobilisti, possono risultare anche ridicole. E allora invitiamo tutti a segnalare eventuali abusi. Con l'Adico ci risentiamo la settimana prossima con altri due argomenti. Grazie Carlo. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.